Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Tutto questo però ha ovviamente un prezzo molto alto. Innanzitutto ogni giorno si riparte da zero. Ogni giorno bisogna vincere la pigrizia, che con l'avvicinarsi dell'allenamento si presenta comunque, sempre, comunque. Lì a tentarti, a domandarti, ma perché non te ne stai a casa con questa pioggia? Sono Matteo Aglietta, ho 36 anni, vivo a Milano e ogni tanto corro. State lì, anche se non correte, state lì un attimo, aspettate, non uscite, non andate via, non cambiate canale, state lì. Oh, non si parla solo di corsa oggi, non è Radio DJ, non sono Linus, qua si trova un modo per parlare d'altro, ok? Semplicemente arrivano un sacco di racconti che parlano di corsa, tanti, veramente tanti, e per questo non possiamo sceglierli tutti. Di questi scegliamo quelli che raccontano qualcosa di più, ok? Ne prendiamo un cuore, quello che facciamo per tutto. In questo caso particolare, il racconto di Matteo andava esattamente in quella direzione. Il racconto di Matteo parla di una cosa che lui fa tutti i giorni e che gli dà forza, in qualche modo, e che, proprio perché la fa tutti i giorni, ha quasi qualcosa di religioso, ha qualcosa di rituale, di metodico, e in quanto tale è quasi una superstizione. Vabbè, questa ve la spiego un'altra volta. Oggi si dedica la puntata a tutte le cose che fate in maniera, ripeto, quasi religiosa, quotidianamente, tutti i giorni o con una cadenza costante. 349-238-6666. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it. Sebastiano, lo sport aiuta. Ross, ogni sera prima di addormentarmi leggo un libro. Margherita, gli addominali tutte le mattine. Daniela, cantare le tre canzoni della buonanotte ai miei figli. Ancora Stefania, prima di andare a dormire porto fuori Wanda, perdonatemi, stavo leggendo Wanda, porto fuori Wanda, il mio cane, potrei farla stare in giardino ma ci piace fare l'ultimo giretto della giornata. Francesca, preparo la tavola per la colazione per tutti. Qui poi il messaggio era molto più lungo e spiegava perché in casa fanno tutti colazione in ore diverse e allora lo prepara credo la sera prima. Luca, andare a messa al fine settimana. Manuel, le cose che religiosamente fa Manuel, ve lo leggo. Il mio rito ogni mattina è quello di scendere le scale. Aspettate, non andate via. Non è una presa in giro e non è un imbecille, Manuel, perché poi va avanti. Può sembrare ovvio per chiunque viva in un palazzo e senz'altro sembrerà strano per molti. Sono esattamente 65 le scale che ogni mattina scendo e le ho contate il primo giorno che ho messo piede nel palazzo in cui vivo, circa da 6 mesi, quando mi sono trasferito a Forlì per studiare. È un rito che può durare una quarantina di secondi. Se sono in ritardo per andare a lezione, scarsa 2 minuti. Se sono in ritardo 46 secondi, altrimenti 2 minuti, se sono in completa pace con me stesso. E la seconda ipotesi è quella che mi gratifica di più. Ok? Avete capito, Manuel? Benissimo. Enrico, sottolineare che con i colori di pastello diversi le righe più importanti dei libri che studio e a fine giornata cercare di riportare colori diversi attraverso le parole che scrivo e trascrivo sulle pagine bianche del mio libricino. Insomma, qualsiasi sia la cosa che fate tutti i giorni, anche su Twitter hanno arrivati dei messaggi. Michele, ascoltare Jungland. Dai, io non lo so, ma qualcuno di là che lo sa? Nessuno. Vado avanti. Muto e religioso silenzio, più qualche lacrima durante l'assolo di Clarence. Niente proprio, ragazzi, siamo veramente Springsteen, ok, quindi è la canzone di Springsteen? Forse non è Jungland. Va bene, allora chiunque lo sappia, 349-238-6666. La cosa che faccio religiosamente tutti i giorni, Franco, leggere Foster Wallace e sottostimare il mio capo. Ne fa due di cose tutti i giorni. Elio, affetto finemente dei peperoni gialli, una cipolla, 2 foglie d'alloro, olio quanto basta e faccio cuocere piano piano tutti i giorni, divino. C'è un hashtag che è Voi siete qui su Twitter e c'è anche un profilo Twitter che è sempre Voi siete qui, gestito da quella donna incredibile che è Margherita Ina, che religiosamente tutti i giorni apre il profilo e cerca di capirci qualcosa. Visto che si parla di corsa per oggi, con Tiziano, cioè l'ha trovato Tiziano e poi l'ha tradotto anche lui, io semplicemente ve lo leggo più tardi, abbiamo trovato un articolo che è uscito pochi giorni fa sul Telegraph che parla di Jonathan Coe, di Sebastian Coe. Jonathan è lo scrittore. Sebastian Coe era forse il più grande corridore fondista inglese, che chiaramente stanno rispolverando per via delle Olimpiadi londinesi di quest'estate. C'è una cosa che lui racconta

sempre, comunque, lì a tentarti e a domandarti perché non te ne stai a casa questa pioggia, o ancora più allettante, ma perché con questo caldo, questa umidità, non te ne vai al torrente? Ma io, stoico, resisto, esco e alla fine, come da copione, quasi sempre ho ragione. Abbiamo già ricevuto e già trasmesso molti racconti, come vi dicevo, che parlano di corsa e di maratona. Questa è una delle categorie di storie che arriva periodicamente e che non smette di interessare evidentemente le persone, in particolar modo, mi rendo conto, chi le vive in prima persona. I primi racconti arrivati non mi hanno stupito, perché so che un sacco di gente corre e molti sono dei maratoneti. Attorno al 20, al 20esimo, 30esimo racconto però ho iniziato a chiedermi come mai questo fosse un argomento così frequentato. Come mai tutti quei rituali della vestizione, dell'alimentazione e dell'allenamento fossero seguiti in un modo così scrupoloso e insindacabile? Perché quell'allenamento quotidiano lì fosse imprescindibile e quella dose di fatica sembrasse quasi una preghiera? E sta lì, cioè la spiegazione che mi sono dato parte proprio da qui, dalla fatica quasi come forma di preghiera. Cioè mi sono fatto l'idea che la corsa sia una forma di religione. Un'attività che, proprio come qualsiasi forma di religione, sostiene la vita di tutti i giorni e le dà un significato. Il luogo di culto in questo caso è il corpo, che viene venerato attraverso dei rituali ben precisi e viene amministrato proprio dal corridore, che è quasi un sacerdote. Questa cosa però non riguarda solo la corsa, riguarda ogni cosa che noi dobbiamo, vogliamo o semplicemente facciamo tutti i giorni. Qualsiasi cosa che noi facciamo quotidianamente o con una cadenza costante ha qualcosa di religioso. Ogni tanto mi viene in mente una coppia di signori che ho incontrato su un tram di Lisbona qualche tempo fa. Erano due ex insegnanti in pensione, venivano dal Galles. E nell'arco di 20 minuti di viaggio insieme hanno spiegato a me e alla mia ragazza che il gallese è una lingua, ma soprattutto il gallese è un individuo molto particolare. Ed è completamente diverso dall'inglese, dallo scozzese, dall'irlandese. Abbiamo parlato di quello e della loro vita, che ora trascorrono un po' in viaggio e un po' accudendo i loro nipoti. Erano cordiali, sorridenti e felici. E non abbiamo parlato del matrimonio o degli anni che avevano trascorso insieme, eppure la sensazione che mi è rimasta addosso era quella di una coppia di persone che non erano più nemmeno in grado di concepirsi separate. E certo, quella cosa lì si chiama amore, lo so, la conosciamo e sappiamo che ha delle fasi, no? Che ha dei cicli, dei periodi e bla bla bla, ma ripensandoci, quel loro modo di tenersi vicini, di dire le cose alternandosi nel prendere la parola, quel modo di salutarci alla fine quando sono scesi dal tram, aveva qualcosa di religioso, qualcosa di sacro. Cioè, una religiosità tutta laica, ovviamente, che non c'entrava nulla con immagini o testi sacri. Era una religione vissuta e celebrata ogni giorno, in una vita insieme. Ogni giorno. Ecco perché quando Matteo dice «tutto ha un prezzo», ogni giorno si riparte da zero. Ecco, io penso che la corsa, l'amore, il lavoro, tutte le cose che frequentiamo ogni giorno siano una forma di religione, che ogni giorno ripercorre tutto l'arco di una vita. La fa nascere e la conclude quando ci addormentiamo la sera. Non sono le cose sporadiche che ci rendono chi siamo. Non è una vacanza, non è un incontro occasionale o un lavoro che dura un paio d'anni a formarci. È quella religione di tutti i giorni che ci rende chi siamo la mattina e chi siamo la sera, prima di addormentarci. È la religione di tutti i giorni che ci riempie la vita e ce la salva, che sia la corsa, che sia un dio qualunque o che sia l'amore. E giustamente, se tu dici qualsiasi cosa facciate quotidianamente, con cadenza costante, tutti i giorni, o comunque con un ritmo, con una cadenza costante, ti prendono la lettera. Per cui io faccio un sudoku al giorno per il cervello elastico. Io sono un climber, ogni giorno mi esercito su un trave attaccato sopra la porta. 24 trazioni tutti i giorni. Tutti i giorni della mia vita gioco a poker online, Andrea. Massimo, tutti i giorni faccio il tè nero Darjeeling secondo raccolto Imperial Puttabong. Tutto c'è scritto. Tutto, non bastava. Questa è una forma di religione, anche perché poi il tè in particolar modo ha un rituale, credo giapponese, mi pare, o indiano. Adesso verrò subissato. Comunque, il vostro rito quotidiano, 349-238-6666. Tutto è partito perché Matteo fa della corsa quasi una forma di preghiera. Pronto, Matteo? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Ammazza, come sei asciutto, Matteo. Mi fai quasi paura. Volevo subito sottolineare che neanche farlo apposta, veramente, Bruce Springsteen è uno dei miei rocker preferiti. E questo, guarda, devi ringraziare Tiziano Bonini, che non so come coglie sempre qualcosa in quello che leggiamo. E Angry Heart è la mia tracklist proprio ai vertici. Dimmi le altre due, allora. Una è, l'avete citata prima, Jungle Land. Ok. L'altra è The Promised Land. Ah, quindi è Jungle Land. È tratta da Born to Run, splendida. Quindi sempre Springsteen. È molto lunga, forse quindi poco radiofonica, però è splendida, veramente. Ma quindi ci sei il 7 di giugno a San Siro? Penso di esserci, sì. Bravo. Magari prima andrò a correre per caricarmi un po', poi andrò al concerto. Saremo in tanti, visto che io accompagnerò mia madre. Lo dico già ufficialmente perché ci facciamo una puntata. Abbiamo già deciso che è arrivato un racconto su Bruce Springsteen e lo teniamo per il 7 di giugno. Matteo, sei andato a correre oggi? Vado adesso. Vai adesso, cioè dopo la puntata. Sì. Senti, poi andiamo alla corsa. Prima però ci sono due cose che tu hai scritto nel racconto che mi si sono inchiodate nella testa. Il primo è un ottimismo che tu definisci incendiario. Cioè, questa cosa che la corsa o chi per essere, mi interessa meno il fatto che sia la corsa che ti regala questo ottimismo incendiario, ma che tu avvicini queste due parole, cioè il fatto che essere ottimista ha a che fare col bruciare qualcosa, quindi col consumarsi. Sì, col fare, senz'altro, sì. Col fare. Soprattutto sempre timore nel fare, nel decidere, nel scegliere. Dopo la corsa le decisioni e le azioni sembrano quasi più facili. Ma tu ti definisci un pessimista cosmico perché hai questo tono di voce, o hai questo tono di voce perché sei un pessimista cosmico, Matteo? Idea. Sicuramente quando ho scritto il racconto ero in crisi perché ero nel pieno di un infortunio, quindi... Ok, sì, mi ricordo. Infatti, guarda, il racconto era molto lungo e come sai abbiamo dovuto prenderne un pezzo. Adesso però, cioè, quindi, tornando alla corsa, è così importante che un infortunio ti deprime al punto da raggiungere una forma di pessimismo cosmico? Al momento sì. Al momento sì. Cioè, questa cosa sai che può essere presa, non so se tu l'hai raccontata anche a qualcun altro, oltre che a noi, però può essere presa come una forma di supponenza, il fatto di dire, guardate, a me non mi frega niente del resto, cioè a me la cosa che mi rende più felice è correre, mi interessa solo quello. Sì, può essere presa, sì. No, devi dirmi di più, Matteo, non puoi fermarti lì, devi dirmi, sì, può essere presa, però... No, può essere presa come una forma di supponenza, soprattutto da parte di chi non corre, quindi magari giustamente può non capire, però non c'è al momento, insomma. Però spero sinceramente di liberarmi, onestamente mi piacerebbe anche liberarmi da questa sorta di dipendenza in futuro. Quindi per te è a tutti gli effetti una dipendenza? Sì, una dipendenza, però solo di liberarmi, in ogni caso sono schiavo di qualcosa. Senti, quanto corri adesso? No, non tanto, io né mentalmente né fisicamente posso reggere molto, corro 3-4 volte a settimana, tra l'ora e l'ora e un quarto, quindi... Sono un runner veramente modesto, assolutamente. Vabbè, immagino questo per quei 2000 runner che stanno ascoltando, per tutto il resto invece sei uno che corre come un matto, perché un'ora e un quarto, se non sei allenato, correre un'ora e un quarto è tanto. Sì, d'accordo, no? Gli stessi runner che corrono con me sono nettamente superiori, assolutamente. Che cosa fai nella vita, Matteo? Lavoro in università, sono impiegato al servizio disabili e DSA. Quindi, scusami, quante ore lavori al giorno? È un orario abbastanza flessibile, abbastanza comodo, diciamo dalle 8 alle 4. E quindi corri la mattina? Corro sempre la sera, ma nel weekend il mattino. Dov'è che vai a correre a Milano? A Traenno, di solito. Questa è ufficialmente la telefonata in cui ho fatto più domande in assoluto, perché Matteo rispondi in due monosillabi, però sei precisissimo. Senti, hai degli obiettivi? Hai una maratona a breve? No, non sono maratoneta, no, massimo arrivo fino alla mezza. Senti, dimmi che cosa fai nel momento in cui la corsa è finita. Ti fai una doccia e te ne stai a casa, oppure esci e sfrutti quella vena di ottimismo? Se riesco esco, se riesco vale la pena uscire a quel punto. Perché uscire dopo la corsa è il massimo. Io non esco tantissimo, ma dopo la corsa, se riesco, esco. Matteo, scusa, non voglio farmi veramente i fatti tuoi. Però cosa fai? Cioè, nel senso, ma che se esci per andare al cinema... Vado al cinema, meglio ancora se a casa degli amici, perché rendo molto a quel punto. secondo me, quindi... Quindi potremmo dire, Matteo, che ancora non hai corso oggi, nel senso che sei al 10% delle tue possibilità in questo momento. Al 10 spero di no, però sicuramente al 60. Va bene, senti Matteo, ti ringrazio davvero per la chiacchiera e il racconto e buona fortuna per tutto. Matteo. Ciao, grazie mille, ciao. Se avessimo solo ascoltatori come Matteo potremmo fare tipo 4 telefonate al giorno. Ciao, io sto passando un momento pesante, sono costretta a letto magari pure lei per un infortunio, grazie di cuore. Loredana, di solito non leggo messaggi così e invece sì. Voi siete qui. La settimana enigmistica, scrive Steve, a proposito della religiosità e del fare le cose tutti i giorni. Ho una liturgia ben precisa, perché appunto non è che si mette lì a fare la settimana enigmistica, la fa in questo modo. Prima inizio le parole crociate senza schema, ma non le finisco. Poi leggo tutti, forse non tutti sanno che. Dopo faccio la ricerca di parole crociate, cornici concentriche, finisco le senza schema, Bartezzaghi, Ghilardi, Di Mauro, tutto questo prima di giovedì, perché poi esce quella nuova e sempre negli stessi posti, mai in altri. Bagno, treno o spiaggia. 349-238-6666. Non abbiamo la foto di Matteo oggi perché voleva rimanere anonimo. Forse aveva foto solo mentre correva e non ce le voleva mandare. O forse semplicemente non aveva voglia di mandarci una foto. Prima di iniziare la giornata di lavoro, mette l'auricolare e sentire Radio 24. Religiosamente danzo appena posso, da sola. Soprattutto, purtroppo non più quotidianamente, da qualche tempo. Specie ora che da 2 mesi e mezzo ho un bebè in grembo, Lisa. E poi c'è il mio messaggio preferito di oggi, che dice così: registro con dovizia maniacale spese, consumi di carburante, gas, luce, acqua, pressione sistolica e diastolica. Più passa il tempo e più trovo cose da registrare: il cambio euro-dollaro, il tasso BCE, titoli di borsa e chi più ne ha più ne metta. Ho raggiunto la patologia quando mi sono messo a cronometrare il percorso casa-lavoro, calcolando poi il migliore percorso possibile. Sono irrecuperabile, Marco. Marco, lo sai già, io magari giro il tuo contatto a Nicoletta Carbone, che fa sicuramente una puntata sulla patologia ossessiva di essere benessere, e ne parli direttamente con lei. Quando si dice fare una cosa tutti i giorni, insomma, cerchiamo di evitare appunto la monomaniacalità. Infatti qualcuno ha scritto: il mio rito quotidiano è fare sempre qualcosa di diverso, altrimenti è paranoia. Giuseppe. 349-238-6666. E poi c'è un messaggio che invece non ho capito. È un po' della serie messaggi fuori contesto, è un po' no. Ed è questo qua. Se il messaggio che hai letto prima lo avesse scritto un uomo, non l'avresti mai letto. Riflettici sopra un po'. Massimo. Ok, allora avevo capito bene, era quello su Loredana, perché probabilmente Massimo pensa che è perché ha scritto una donna che io lo volessi leggere. E allora Massimo, il fatto che io abbia letto il tuo messaggio, che è un uomo e che non c'entra, vuol dire che temo che tu abbia torto. Prima si parlava di corsa e si parlava di religiosità e costanza, e allora Tiziano ha tirato fuori questo articolo, come vi dicevo prima, che è stato scritto qualche giorno fa, è uscito sul Telegraph, che parla di Sebastian Coe. Sebastian Coe è un corridore inglese che ha vinto diverse medaglie. Bonini è, diciamo, è autistico da questo punto di vista, quindi saprà sicuramente quante medaglie ha vinto Sebastian Coe. Quante no? Ha vinto Mosca e Los Angeles, ma in che cosa, Tiziano? Negli 800? 1500-800? Medaglia d'oro? No, medaglia... non lo sappiamo. Alcuni argenti, alcuni oro. Insomma, Sebastian Coe era un corridore inglese che aveva raggiunto un tale livello di autoreligiosità nel fare le cose che il giorno di Natale del 1979 si obbligò a fare questa cosa qua. Era un duro inverno, duro abbastanza da far cadere un governo. Ma anche quella mattina di Natale del 1979 feci le mie solite 12 miglia di corsa. Era stato un allenamento duro, così andai a casa, mi feci una doccia e ne uscii soddisfatto. Più tardi quel pomeriggio, seduto sul divano dopo il pranzo di Natale, cominciai a sentirmi a disagio, ma non capivo bene perché. Poi all'improvviso realizzai. Scommetto che Steve Ovett, mio avversario all'epoca, adesso è fuori in strada a fare un secondo allenamento, pensai. E allora mi rimisi la tuta e tutto il resto e uscii fuori a prendere la neve e la pioggia ghiacciata di quel Natale del 79 per la mia seconda seduta d'allenamento. Corsi per diverse miglia, ora non ricordo più quante, comprese diverse sessioni in collina. Poco tempo fa, durante una cena a Melbourne, ho raccontato a Steve questa storia e lui, ridendo, mi ha risposto: «Sei uscito solo due volte quel giorno?» La finale del campionato europeo di Praga del 78 fu la mia prima vera gara contro Ovet. Lui prese l'argento, io il bronzo. Allora capii che se volevo batterlo avrei dovuto correre più miglia, più forte e più a lungo. Quando fu il tempo delle Olimpiadi di Mosca due anni dopo, io detenevo il record del mondo degli 800 metri e, sulla carta, ero 2,5 secondi più veloce di chiunque. Mi sentivo scoordinato e distante da tutto. E così persi la gara. Arrivai dietro a Ovet di 0,5 secondo. La notte dopo il disastro degli 800 dormii benissimo. Non lo so, ma scommetto che capita a tutti di alzarsi dopo un disastro personale e sentirsi momentaneamente bene, col disastro alle spalle. Poi però il dolore torna a colpire. Il mio grande amico di allora, il decatleta Daley Thompson, entrò a sorpresa in camera mia e quando gli chiesi com'è il tempo, lui rispose: «Il cielo è d'argento». Era la risposta giusta. Era domenica. Daley disse: «Vai a correre. Fai quello che sai fare meglio. Esci e vai a correre». E così per almeno un'ora feci solo quello: correre. Il giorno della finale dei 1500 sulla pista eravamo io e Ovet. Di nuovo. Ai 650 metri Steve cambiò passo violentemente e io gli rimasi attaccato. Poi ai 300 non pensai più a nulla e mi lanciai oltre. E passai per primo. Nel 1989 mi ritirai dalle gare. Se 15 anni prima mi avessero chiesto cosa mi spingesse a correre, avrei certamente risposto il desiderio di vincere una medaglia e fare un record olimpico. Ora che ho smesso, però, capisco che la mia motivazione era un'altra. Era la limpida, incorrotta, cristallina gioia di correre e portare quella corsa oltre i limiti del mio corpo. Tutte le mattine, dopo aver portato le bimbe a scuola, vado a messa e sono serena tutto il giorno, Elisa. Ciao, tutti i lunedì in una corale di musica classica. E per me è come rinascere, sapere che ancora il mio fiato c'è, nonostante il mio cuore bizzarro e malato me lo permetta. Ancora poco. Claudia, faccio le prime 10 forme del Tai Chi ogni mattina o nella prima pausa al lavoro. Alessandro. Cioè, in che senso? Al lavoro fai una pausa e insomma, le forme del Tai Chi immagino abbia bisogno di spazio, no? Per farle. E magari anche di qualcuno. Ma come magari no? Il Tai Chi non è quella roba che fanno i cinesi nei parchi la mattina. Oddio, è un ridetto così. È veramente orribile proprio. Cioè, un analfabeta totale. Ma sì, il Tai Chi è quella roba che, no? I cinesi si mettono lì e fanno nei parchi la mattina. Chiedo scusa a tutti i cinesi, a tutti quelli che fanno il Tai Chi. 2 ore quotidiane di esercizi sulla batteria, ogni giorno dopo almeno 10 ore di lavoro. E poi Valentino scrive: «Voi siete qui alle 16, è una droga. Sto recuperando le puntate perse grazie ai podcast e sto elargendo puntate ai conoscenti». Valentino è ufficialmente il primo spacciatore di podcast della storia di Voi Siete Qui. Lo ringrazio e facciamo anche una piccola segnalazione. Ci sono stati dei problemi con il podcast la scorsa settimana, mi pare, per problemi, dei problemi insomma tecnici. L'uomo coi tacchetti ha anche lui le sue esigenze, quindi ogni tanto ha da fare. È tutto di nuovo regolare. Il podcast lo trovate sul sito di Radio 24 alla voce podcast, altrimenti abbonandovi ad iTunes gratuitamente. 5 puntate alla volta ve le scarica automaticamente. Ma la splendida Margherita Ina carica il link del podcast anche su Twitter e su Facebook, cioè dappertutto lo mettiamo, ragazzi. Manca solo che me lo chiamate, vi mandiamo un SMS a casa e ve lo trovate. Grazie di nuovo a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. E soprattutto grazie a Matteo, al suo carico di entusiasmo che ci ha portato con la telefonata di oggi. Non gli ho detto stai su, ma è Matteo, guarda, è come se l'avessi fatto. La storia di oggi era la sua, era quella di Matteo, e parlava di correre e fare le cose religiosamente. Quella di domani è la storia di Manuel e parla di oggetti ritrovati.